Ricordi quella mattina, c'era la neve e la luce illuminava il tuo viso, acceso, mi sembrava ancora più bello. Felice, vorrei dirti ti amo, ma poi lo so, non possiamo permetterci la felicità. Ora non ci pensiamo, godiamoci questo breve anticipo di paradiso. Soli, non so se provare, rischiare la nostra intesa, sciupare, ma sì, sì lo so, possiamo permetterci la felicità. Io non ci voglio pensare, ora voglio sognare e godere questo attimo.